347. Budino alla genovese. Pitella di latte grammi 150. Un petto di pollo di circa grammi 130. Prosciutto grasso e magro grammi 50. Burro grammi 30. Parmigiano grattato grammi 20. Uova numero 3. Odore di noce moscata. Un pizzico di sale. Tritate con la lunetta la vitella, il petto e il prosciutto e poi metteteli in un mortaio insieme col burro, col parmigiano, con un pezzetto di midolla di pane inzuppata nel latte e pestate moltissimo il tutto per poterlo passare dall'ostaccio. Ponete il passato in una catinella ed aggiungete 3 cucchiaiate di balsamella numero 137, che per questo piatto farete della consistenza di una pappa. Unite al medesimo le uova e l'odore e mescolate bene. Prendete uno stampo liscio di latta, ungetelo tutto con burro e ponete in fondo al medesimo, tagliato a misura, un foglio di carta ugualmente unto col burro. Versateci il composto e cuocetelo a bagnomaria. Dopo sformato, levate il foglio e sul posto di quello spargete un intingolo composto di un fegatino di pollo tritato e cotto nel sugo. Servitelo caldo e se vi verrà ben fatto, lo sentirete da tutti lodare per la sua delicatezza. Però qui viene opportuno il dire che tutti i ripieni di carni pestate riescono più pesanti allo stomaco di quelle vivande che hanno bisogno di essere masticate, perché, come dissi in altro luogo, la saliva è uno degli elementi che contribuiscono alla digestione.